apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. È qualche giorno che è oggetto di attenzione giornalistica il fenomeno delle baby gang. Non è che io ne sappia granché, anzi questa mattina mi affido molto alle testimonianze del pubblico. È uscita proprio una serie di articoli concatenati, quando una serie di giornali, quando alcuni programmi televisivi, quando si comincia a respirare dell'aria attorno a episodi di cronaca, una sorta di forte copertura, approfondimento, quando cominciano a parlare gli psicologi, i sociologi, quando comincia a diventare un fenomeno, ogni evento che attraversa la nostra esperienza quotidiana assume il rango di pura concreta e reale esistenza. È sicuro e accertato che il fenomeno diffuso dell'immigrazione, sia nelle grandi città sia nelle città di provincia, ha creato delle aggregazioni non soltanto di adulti ma anche di ragazzi che cresceranno legate appunto alla loro appartenenza d'origine. È chiaro altresì che molti episodi di cronaca recente realmente hanno avuto come protagonisti adolescenti irregimentati tra loro per etnia, per necessità di controllo del territorio. Se ne è parlato molto, vari articoli sotto braccio, Repubblica, sotto braccio aveva un'ora fa circa. Repubblica nella giornata di ieri ha fatto addirittura due paginone del suo inserto dedicato a questo, ha fatto un'analisi di quelle che sono tutte i protofenomeni di aggregazione giovanile nelle grandi città d'Italia come Genova, Torino, Roma, Napoli. Cominciano nel genovese alcune baby gang legata a latinos come nell'accezione più percorsa da tutta la filmografia, da tutto il racconto romanzato. Ma quando cominciano alcuni fenomeni a lambire quella che è la nostra esperienza quotidiana, forse vale la pena di capirne la reale entità. Vedo anche su un quotidiano romano di una baby gang di baby bulle nell'area di Latina che terrorizzano le rivali in amore, anche le aggregazioni femminili che sembrano appartenere soltanto anche lì ad alcune pellicole specializzate nei contrasti nelle grandi periferie americane, cominciano a toccare anche le nostre più banali province, non connotate da particolari fenomeni di emergenza, perlomeno nella media emergenza di tutte le città d'Italia. Beh, voi che esperienza avete delle baby gang giovanili? Qual è, al di là dei fenomeni di bullismo diffusi, cui abbiamo tanto parlato, che appartengono più che altro a piccoli e spontanei agglomerati all'interno di una classe, all'interno di un quartiere, all'interno di un luogo di aggregazione? Esiste, l'avete conosciuto, l'avete toccato, avete avuto paura, avete avuto figli coinvolti, avete avuto figli vittime, avete figli che escono di casa con una felpa e con un coltello sotto, che pare che siano gli elementi che contraddistinguono la media del militante nella baby gang. Ne avete sentito parlare? Qual è la vostra esperienza? Oggi sono qui ad ascoltarvi perché veramente vorrei colmare la mia personale lacuna su questo fenomeno. 800 24 00 24. Sequestravano i telefonini e le chiavi dello scooter ai loro coetanei e li restituivano soltanto dopo il pagamento di un riscatto. Insomma, chiedevano il pizzo. Gli esattori però non avevano più di 16 anni. Adesso sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Palermo, che nella notte hanno fatto scattare le manette ai polsi di tre minorenni. Due hanno 17 anni, il terzo ne ha appena compiuti 18. Eccoli mentre aspettano che la ragazza si liberi dell'ultimo cliente. In tasca nascondono coltelli e punteruoli che useranno per costringere la giovane prostituta a consegnare i soldi e gli oggetti di valore che ha in casa e poi a fare sesso con tutti e tre. I cappucci non sono bastati. Gli agenti della questura di Alessandria li hanno rintracciati ed arrestati. Un'indagine difficile partita dalle voci delle violenze subite. Questa è una delle cronache prese da un programma televisivo ma ce ne sono veramente tante. Entro nel merito per cominciare a dare qualche nome, qualche definizione dell'inchiesta fatta da Piero Colaprico su Repubblica R2 di ieri. Dice il collega che ha approfondito questo tema che queste baby gang in Italia siano concentrate soprattutto Milano, Genova, Torino, Roma, Napoli. Milano è la città principale in cui il fenomeno perlomeno è declinato in tutte le sue possibili forme. Si parte dai Latin King, che sono dell'Ecuador, i Comando, che sono dei peruviani, i Nietas, che sono presenti ovunque, i Trinitarios, che vengono dalla Repubblica Dominicana, salvadoregni e via dicendo. Insomma, sembra singolare perché non con coscienza e con lucidità siamo stati mai colpiti da una così variegata forma di aggregazione giovanile, che non appartiene alla nostra tradizione aggregativa. Ancora probabilmente chi appartiene alla generazione di chi parla è abituato ad organizzazioni legate a due grossi filoni. L'uno, forse quello leggermente più vetusto, che oggi si ripresenta attraverso riedizioni ma molto meno preoccupanti di quelle che conoscemmo negli anni 70 e negli anni 80, che è quello legato all'aggregazione politica. Di bande giovanili si intendeva semplicemente organizzazioni giovanili fortemente ideologizzate, fortemente legate in maniera manichea ad alcune visioni del mondo, diciamo, che si scontravano quotidianamente nei luoghi di comune e placida frequentazione dei cittadini, che erano talmente disinteressati a questa sorta di guerra interna. Se si cammina per una città come Roma, si può fare una sorta di percorso attraverso alcune linee sotterranee che lasciano testimonianza cruenta e sanguinosa di quello che fu il fenomeno degli anni 70. Roma è piena di lapidi, di tombe, di luoghi che ricordano che lì un ragazzo è stato ucciso. È stato ucciso nella maggior parte dei casi da suoi coetanei di idea avversa, in altri casi da forze di polizia, da forze dell'ordine con i quali avevano degli scontri di grosso livello, di intenso livello. Poi l'altro tipo di organizzazione è quello di cui si parla sempre meno, però se ne parla in tono minore perché anche lì ci sono i flussi di attenzione giornalistica, è quello legato alle tifoserie, legato alle grandi trasferte, grandi derby, alle grandi partite di calcio. Sentiamo Franco. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi rendo conto che magari non è molto attuale. Io sono padre di famiglia e oggi ho due figli, però in gioventù ho fatto parte... Quanti anni ha lei, Franco? Io vado per i 35. Ecco, quindi diciamo abbastanza giovane, non è che parla di un passato così remoto. Sì, comunque ai tempi miei, ti parlo proprio che ero ragazzino e io abito su una cittadina di 15.000 abitanti. Quindi negli anni 80, stiamo parlando anni 80 circa? Anni 80, sì. Eravamo divisi in bande. In che zona? Ma io sono da provincia di Vicenza, quindi ti parlo di un paese proprio piccolo di 15.000 abitanti, una cittadina. Però già a quei tempi eravamo divisi in bande e ci picchiavamo, addirittura mi ricordo che usavamo il catechismo, era proprio prima del catechismo ci picchiavamo spesso, eravamo divisi in bande e io spesso le ho prese. Sì, ma qual era diciamo l'appartenenza che vi divideva? Su cosa vi... L'appartenenza è stupida perché qua, se ci penso adesso mi viene da sorridere. C'era chi si considerava la banda dei giusti e chi era la banda dei cattivi, cioè proprio cose... Quindi il catechismo, vi ispirava il catechismo una sorta di Armageddon finale, cioè la battaglia finale fra il bene e il male, quindi cominciavate... È assurdo perché proprio ci picchiavamo calci, pugni. Mi ricordo che un periodo c'è stato, a presente praticamente quando scendono le castagne, quelle matte, no? Sì, certo. E ci facevamo la guerra a lanciarsi queste castagne matte, ma ci facevamo... L'ippocastani sarebbero, sì. E quindi è andato avanti per anni e anni. Ma con il riccio e tutto? No, senza riccio, perché allora sì che si rompevano e si... Beh, non facevano tanto male, era meglio lanciarle con riccio, scusi. Sono belle grosse. Poi ovviamente crescendo è arrivato il momento di motorini, allora c'era proprio le bande, c'era chi andava a smontare pezzi di motorini, rubavano i collettori, i carburatori, e anche lì c'era sempre la suddivisione in bande, fra paesi però. Poi c'è stato il salto di qualità, ci si picchiava fra paesi anche di frazioni di 1.000 abitanti, cose piccole, insomma. Ecco, queste risse quante persone coinvolgevano? No, lo sa perché è interessante quello che dice lei, perché sembra che oggi si scopra un fenomeno inesistente alle nostre latitudini, che non aveva nessuna radice. Guardi, la prima telefonata che mi arriva e mi dice che, guarda, che noi ci siamo dati di santa ragione nella provincia del Vicentino, non è che perché sono arrivati gli ecuadoregni o quelli del Salvador, improvvisamente in Italia si scoprono le baby gang. Quindi esistevano già ai suoi tempi feroci, potenti e cruente le baby gang, ma un'escalation forte, quindi il passare coltelli e il passare, diciamo, alle armi, non c'è mai stata? Quella c'è stata, e mi dispiace dirlo, c'è stata nel momento in cui sono arrivati i meridionali negli anni 90. Con l'arrivo dei meridionali, poi non voglio fare discorsi... Lei sta raccontando una storia. Ecco, non voglio passare per l'assista, ma con l'arrivo dei meridionali e poi degli albanesi si sono visti i coltelli e noi italiani abbiamo cominciato ad andare da peggio. Quindi prima era soltanto botte, poi quando sono arrivati gli albanesi, e dice lei, sì, e sono cominciati a passare al coltello. Esatto, noi al massimo usavamo mazze da baseball. Non è che sono carezze anche le catene e le mazze da baseball. Però i coltelli mai. Sì, sì, il coltello sbudella, ma anche la mazza da baseball fa uscire le cervella, come dice. Lo so, ma noi ce le davamo di solito sulle gambe, sulle braccia. Miravate a spezzarvi le rotule, che in effetti rende invalido a vita, ma però non permette... E poi mi ricordo il massimo dei danni, qualcuno ha perso denti, facevamo contenti i dentisti, insomma. Quelli si rimettono. Qualcuno... Vabbè, comunque, lei ha fatto... Adesso siete tutti tranquilli, padri di famiglia. Sposati, padri di famiglia, quasi tutti, a parte qualcuno, ma c'è sempre quello sbandato che sceglie la strada cattiva, ma quello penso sia una cosa normale, insomma. Ecco, e i suoi figli le risulta che seguano le orme paterne in questa esperienza di baby gang? Non lo dico con ironia, tutti sì, abbiamo passato momenti... diciamo, c'è un problema che uno c'ha 10 mesi, la bambina ne ha 4, quindi hanno ancora tempo. Quindi avranno ancora tempo per imparare, benissimo. Tireranno fuori la mazza da baseball dalla cantina e cominceranno anche loro. Grazie Franco. Alberto. Buongiorno. Io ho una collaboratrice domestica da 10 anni ecuadoregna, sì, il cui figlio è stato... Di quale città stiamo parlando? Milano. Il cui figlio è stato arrestato tempo fa, condannato a 8 anni perché in una rissa davanti a una discoteca ha coltellato un ragazzo che poi si è salvato. Era un Latin King, come leggo nel sì, pezzo sì, di Repubblica. Sì, ha preso solamente 8 anni. In attesa di processo della Cassazione è uscito, altra rissa, altro coltellamento, altri 4 anni. E io parlando con la madre, che poverina, da madre è disperata, gli dicevo, ma siccome parlava sempre di suo figlio, fatto niente, gli dicevo, ma chiamiamola Maria, ma suo figlio va in giro con un coltello di 20 centimetri, sbudella la gente, e lei mi ha detto, ma è normale, coltello tutti i maschi latino, normale. Parla ancora così, cerco di ripetere per dare il senso del suo stupore, e lo considera assolutamente normale col figlio in galera, disperata, lei grande lavoratrice, fa i salti mortali per andare a trovarlo, ma mi ripete sempre, non ha fatto niente perché è stata una rissa normale, tutti hanno il coltello. Quindi lei vorrebbe capire che alcune tradizioni metropolitane che nelle periferie di città particolari, con particolari tensioni o particolari problemi sociali che ancora noi non conosciamo relativamente o fingiamo di non conoscere, che esistano nelle nostre latitudini, importati nelle nostre città, rendono quello che per noi viene considerato, noi civilizzati, a normalità, una sorta di esplosiva commistione, capito? Forse fra 10 anni non sarà più normale per questi ragazzi qui, ma attualmente queste bande, e questo poverino è in galera, si deve fare 16-14 anni, ma per la mamma ormai non ne parliamo più perché poverina, lei come tutte le mamme ama il figlio, per cui lo trova normale, tutti, è un maccio e per canto deve avere il coltello. Diciamo una cosa, che il fenomeno accade anche, molti dei nostri figli probabilmente, spesso nostri figli, mi ci metto anch'io perché leggo le cronache, capisco, sono implicati in paradossali episodi per cui i genitori spalancano gli occhi di come è potuto accadere qualcosa a casa mia. Il discrimine di differenza è che accade comunque in tutti gli strati sociali, in tutte le società, in tutte le possibili latitudini del nostro paese, ma perlomeno la nostra reazione è quella di dire, ma come mai accade questo? Cosa ho fatto io? Dove ho sbagliato? Per la madre dell'Ecuador ha semplicemente importato un modello che era il pane quotidiano nelle loro città. Certo. Grazie mille Alberto. Giovanni. Salve, buongiorno. Dunque, io sono un docente di scuola superiore e in una regione d'Italia, preferirei... Sì, centro Italia ha detto, scusi. Centro Italia. Centro Italia, sì, non occorre, basta capire più o meno. Guardi, io posso permettermi di, non di contestare, di discostarmi un po' da quello che era stato detto all'inizio. Si parlava di appartenenze a gruppi sociali, di immigrazione. Guardi, la realtà che vivo, voglio dirle questo, è più la condizione conga che l'appartenenza ad un gruppo sociale. Magari le due cose possono essere ricollegate, se la povertà è comune denominatore. Determinare condizioni di aggregazione di gang. Io nella situazione... Guardi, facciamo una cosa, Giovanni, la sento veramente male. Riattacchi per gentilezza al telefono, la richiamiamo. Intanto andiamo avanti e continuiamo ad ascoltare quelle che sono alcune cronache prese da telegiornali sul fenomeno, perlomeno come viene registrato dagli organi di informazione. La polizia era sulle loro tracce da mesi, da quando a ottobre avevano accoltellato alcuni coetanei. Cinque giovani appartenenti a bande di sudamericani sono finiti in manette a Milano. L'accusa, attentato omicidio, lesioni gravissime e furto, sono di origine ecuadoregna e peruviana. Due di loro sono minorenni. A Milano la guerra tra le bande è ricominciata, uno scontro per il territorio in cui Latin King, Chicago, Trinitarios, Dominicani si confrontano a colpi di coltello. Parlano di Nation, di Corona Suprema, Inca, Casiche, i gruppi vengono chiamati capitoli e chi tradisce paga col sangue. I loro territori vanno dai cortili delle scuole alle strade del centro delle metropoli come Milano, Roma, ma anche Torino, Genova, Bologna. Le vittime preferite sono i quattordicenni. Quello che ci diceva un po' l'ascoltatore di poco fa, che vedo con grande soddisfazione, che poi interrogare quella che è l'esperienza diretta delle persone che ascoltano la radio permette di ricostruire alcuni pezzi del semplice racconto giornalistico. Ci ha dato un elemento in più rispetto a quelle che sono le cronache. Le cronache fanno l'elenco, enumerano quelli che sono i fenomeni, le fattispecie, ciò che risulta dai rapporti di polizia, ciò che risulta dagli arresti, ciò che risulta dalle indagini, dagli episodi di cronaca. Risulta che sono state importate e aggiunte probabilmente a quelli che sono i fenomeni nostri, locali, il signore di Vicenza che si ammazzavano di bastonate semplicemente per motivi futili, per rivalità di quartiere, di condominio, che l'escalation c'è stata poi con l'arrivo di diversità, sia che venivano dal meridione d'Italia, sia che venivano dall'Albania o da altri paesi, c'è stata un'escalation, c'è stato un motivo in più per azzuffarsi, per prendersi a coltellate, la differenza di luogo d'origine, la differenza di cultura, la differenza di lingua parlata. La signora invece Colf del nostro ascoltatore, che trova perfettamente normale questo fenomeno nel suo paese, nella sua cultura, nel suo modo d'essere, e non capisce nemmeno perché il figlio sia stato arrestato, è la prova concreta di quello che sta accadendo, del cortocircuito che sta avvenendo. Poi probabilmente le varie componenti si ritroveranno una loro collocazione. In questo momento la diversità è questa. Luciano, buongiorno. Buongiorno a lei. La sto ascoltando. Allora, volevo dirle che le battaglie che discutete oggi c'erano anche nel 1948-49. Nell'immediato 40. Dopoguerra. Certo, io facevo parte di una banda della mia strada, della mia via. In che città? Genova. Genova, ecco, sì. E nel quartiere di Albaro, che è uno dei più lussuosi, no? Però facevamo le guerre tra via Lucca, per dire dove abitavo io, contro Piazza Parini, che era 700 metri più verso il mare. Ecco, il motivo della guerra qual era? Per denaro, per soldi? No, per... No, per fare la guerra, per avere un predominio della zona. Ma come i ragazzi della Via Palla, esattamente. No, ci tiravamo delle pietronate con le fionde, no? Andavamo là, noi avevamo i nostri fortini fatti di pietre, con gli elmetti dei tedeschi che erano scappati. Cioè, non vi bastava così il fatto che eravate usciti da due anni dalla guerra? Continuavate... Continuate era a farlo. Era divertente. E i più grandi, diciamo il capobanda nostro, che avrà avuto 16-17 anni, aveva anche la rivoltella fregata ai tedeschi quando sono scappati. Quindi no? Il capo aveva anche un'arma da fuoco. Certo, però il capo sparava in aria, non sparava addosso alla gente. Però una pistola vera era. Con la pistola vera. Poi noi andavamo anche a rubare tutte le munizioni nei fortini dove erano i tedeschi per divertirsi a far svuotare le pallottole da polvere da sparo. Per prendere la cordite, ma questo è un discorso già detto. Certo, la balestite, facevamo un sacco di cose. Quindi, secondo me, è proprio insita nell'uomo. Non è mai morto nessuno, no? No, assolutamente. Ferite gravi? Nemmeno. Testa rotta, sì, io arrivavo a casa con una testa rotta, mia madre mi medicava al sangue. Ma con la fionda cosa tiravate, bulloni o sassi? Sassi, sassi. Ah, solo sassi, vabbè, allora. Solo sassi. Che volete che sia. E per noi era un divertimento, no? Senza nessuna malizia. Era un discorso di fare la guerra contro un'altra banda, no? Di un altro quartiere, di un'altra via. Adesso no? Che siete cresciuti vi vedete ancora fra ex nemici? Ma certo, ma eravamo anche amici allora. Allora, finito la guerra, noi stabilivamo che stamattina alle 8 ci facevamo. Vi massacravate, guerra. Sì. Ecco, alle 2 si finiva. Basta. E tutti amici come prima. Tutti amici come prima. Va bene, grazie. 00 24 80 24 00 24. Avete visto? Abbiamo un vasto parterre di testimonianze senza dover ricorrere alle baby gang giovanili che vengono da paesi lontani, che dimostrano che la nostra voglia di scazzottarci fra amici ha le radici molto profonde. Melog 2.0. Ci avevano lanciato col coltellino e noi dovevamo scendere. Mi hanno spinto contro il muro e mi hanno fatto muro in 10, mentre uno mi ha sfilato il portafoglio dalla tasca. Devi star fermo più che altro, che sennò ti menano. Perché anche i miei amici sono stati derubati, giacche anche, abbigliamento proprio, oltre a cellulare, portafoglio. Io alla mattina mi faccio accompagnare da mio padre a scuola. Qualcuno uscito nella strada col coltello in tasca, senza cultura per la strada cosa vuoi che nasca? Chi accetta di portarlo accetta il sangue, hai massaggiato il suo sapore nelle tue scorribande, se nulla è dentro di te puoi correre quanto ti pare, nulla corre con te. Quelle erano testimonianze di alcune vittime delle baby gang e questo è Giù le lame di Assalti Frontali, che è una band che si muove, fa concerti in quartieri periferici di Roma. E pare che la fattispecie che cominciamo ad analizzare del nuovo fenomeno rispetto ai racconti romantici dei nostri ascoltatori che parlano delle botte che si davano nel Vicentino negli anni Ottanta con mazze da baseball e catene fra paese e paese, dell'immediato dopoguerra ancora con gli elmetti dei tedeschi facevano assassate, fiondate e addirittura qualcuno aveva le armi da fuoco nel genovese. Insomma, ci stanno arrivando testimonianze del fenomeno comunque del contrasto fra giovani non legati necessariamente a ideologie, è un fenomeno già conosciuto. Però la novità è proprio questa. Le baby gang operano delle operazioni vera e propria rapina. Sono dei controlli del territorio finalizzati comunque al delinquere, non finalizzati semplicemente al confrontarsi romanticamente con i rappresentanti dell'altra fazione, dell'altro colore, dell'altra banda. Sentiamo la testimonianza anche di qualche altro ascoltatore. Giovanni. Salve, buongiorno. Prima ero in galleria. Sì, adesso la sentiamo meglio. Io sono un docente di scuole superiori e dicevo, l'esperienza che abbiamo, che ci sta creando non pochi problemi, è di un elemento che è presente in una classe che è assolutamente italiano, quindi mosso più una baby gang, cioè sta in una baby gang che gestisce la vendita di come si chiama da questa parte il fumo, lo chiamiamo generalmente il fumo, sì. Ma parliamo di hashish e marijuana. Ok. Sì. Quindi diciamo è il terminale ultimo di una catena di spaccio, un piccolo... Sì, esatto, esatto, è la cosa che a me personalmente, perché le baby gang ne stiamo parlando, stiamo acquisendo gli elementi, è che pare che molti di questi elementi mantengano le loro famiglie, cioè vadano in giro con mazzette da 100 euro una sopra un'altra e si dedichino allo spaccio anche nel circondario della scuola che è frequentata. Questo sta provocando, perché adesso la notizia si sta allargando in attesa poi di un intervento coordinato delle forze dell'ordine che si sta preparando, questo lo so per vie informali naturalmente, ecco, sta creando anche non poca defezione, quindi a parte diciamo la verità, bisogna essere proprio ciechi per non accorgersi che agli orari di uscita attorno alle scuole ci sono ragazzi che chiaramente non appartengono a quella scuola o che chiaramente sono dei punti di coalizzazione non certo finalizzata a scambiarsi gli appunti per i compiti del pomeriggio. Questo si vede, basta andare all'uscita da una scuola, si vede l'angoletto dei coatti dove si scambiano il fumo, si compra il fumo, quello che vende fumo si vede a occhio nudo, basta stare mezz'ora al di fuori di una scuola. Quindi mi sembra che il fenomeno sia abbastanza evidente, quindi fa parte di quelle maglie larghe in cui l'intervento a volte è difficile, a volte anche abbastanza complicato. Proprio questo, lei ha centrato perfettamente. Beh, io ho gli occhi aperti quando vado per strada, ho i figli a scuola, lo vedo. Potrei descrivergli, guardi, potrei descrivergli anche l'aspetto esteriore dello spacciatore di ogni scuola, che fa parte della scuola, ma da come porta i capelli, da come è vestito, dal carisma che è attorno, dalle persone che lo circondano, si vede occhio nudo. Se lo vedo io, lo vedranno i professori, lo vedranno i genitori, e probabilmente molti dei genitori saranno anche i suoi clienti. Quindi pronto? Problema logistico amministrativo, perché quello che si sta cercando di fare è addirittura un intervento con cani, cioè prendere, come si suol dire da qualche parte, la persona col sorcio in bocca, cioè nel senso prenderla e bloccare e dare esito, dare chiusura a tutta una situazione. E però io mi chiedo anche, questa è una domanda che io pongo in maniera non retorica, ma prima di ricorrere ad un blitz dei carabinieri, delle forze dell'ordine e tutto, ma sta diciamo l'assetto sociale, ma se io però scusi troppo... Giovanni, non per, io lo chiedo a lei che è un insegnante, ma voi come scuola, come corpo docente, come responsabile della scuola, sareste voi i primi a dover fare qualcosa nei confronti di questo fenomeno. Lei mi ha detto che un suo allievo, una persona che frequenta la sua scuola, è vox populi lo spacciatore, il pusher della scuola. Lei lo dice a me, ma lo dica a chi di dovere a questo punto. Oramai è di dominio pubblico, cioè nel senso non possiamo nemmeno accennare o vagare, perché oramai, come ha detto lei, vox populi, però di fatto l'intervento richiede di prendere la persona con i soldi, con la roba, perché altrimenti rischiamo anche senza Io presuppongo, non ho grande esperienza, questo arriverà la mattina pieno, se ne andrà a vuoto, quindi bisogna prenderlo nella fase intermedia. Comunque guardi, fermiamoci, abbiamo già dato modo di dare un'idea di quello che può essere un problema. Vorrei chiamare l'ospite di questa mattina, che è una persona esperta del fenomeno che stiamo trattando, che è Aurelio Spaziani. Aurelio Spaziani, buongiorno. Buongiorno a voi. Spaziani è autore di un volume, Il fenomeno delle bande giovanili, profilo criminale del Branco, edizioni Mondo Studio, e lavora nella Polizia di Stato. Lei ha sentito questa ultima telefonata? Sì, ho ascoltato. Ha a che fare con l'oggetto, diciamo, della sua osservazione, del suo studio, o è un altro tipo di fenomeno? Ma guardi, allora, è chiaro che i reati posti in essere dai giovani possono essere posti in essere o da singoli giovani che si aggregano soltanto per scopi di carattere criminale, e quindi a quel punto non andiamo a toccare quello che è l'argomento, diciamo, del fenomeno delle bande giovanili. E quindi è una criminalità giovanile che c'è sempre stata e purtroppo ci sarà sempre. È un altro problema. Allora, tocchiamo quello delle bande, quello che più ci interessa questa mattina. Sì, sì. Ma il fenomeno delle bande giovanili in Italia ha una doppia valutazione. La valutazione dei gruppi di extracomunitari che si sono aggregati per motivazioni sicuramente differenti da quelle dalle baby gang, che è composte esclusivamente da ragazzi italiani. È chiaro che a fondamento dell'aggregazione da parte di ragazzi extracomunitari vi è comunque una ricerca di identità, una ricerca di una posizione di interesse all'interno della società che li ospita, perché comunque sia, anche se nati in Italia, si sentono ancora ospiti, e li porta comunque a sentire questa sorta di emarginazione. Questo sfocia sempre, diciamo, in fenomeni tipo delinquenziale, o molte volte sono aggregazioni semplicemente di, diciamo, pesante controllo del territorio, ma non si va mai oltre, diciamo, l'essere minacciosamente presenti in un territorio, ecco, fine. Ma allora guardi, per esperienze e per attività di indagine espletate sia a a Genova che a Milano, che sono state comunque delle attività di indagine che hanno analizzato al meglio e in maniera più approfondita quella che sono il fenomeno delle bande giovanili nel nord Italia, la Polizia di Stato ha potuto verificare comunque che le motivazioni per cui questi giovani si aggregano sono sicuramente riconducibili a principi di carattere sociologico o psicologico. È chiaro che da lì il modo più semplice per potersi imporre certo non è il dialogo, ma è l'aggressività, quindi atti di violenza spiccioli senza alcun tipo di finalità. Da lì è chiaro che poiché abbiamo riscontrato come Polizia di Stato la necessità di un apporto economico per poter dare forma a delle bande giovanili che non sono una sporadica aggregazione di ragazzi, ma partendo da presupposti di carattere culturale e di tradizione dei paesi di origine, costituiscono una vera e propria organizzazione. Quindi hanno bisogno di un budget, devono finanziarsi. Assolutamente sì, perché hanno dei rituali, hanno delle regole, hanno delle prove a cui vengono sottoposti i neofiti per poter accedere all'interno del gruppo. Allora senta, mi scusi, dottor Spaziati, ci possiamo interrompere soltanto un istante, visto che entriamo proprio nel punto interessante del racconto di quelli che sono i rituali, quelle che sono le parole di passo, i vincoli che tengono insieme queste persone. Ci interrompiamo soltanto un istante per dare le informazioni dal traffico e poi riprendiamo con lei l'analisi delle nuove bande giovanili in Italia. Melog 2.0. Che bande ci sono in giro adesso? Ci sono i ragazzi dell'Alba e gli angeli della palude. Saccheggiano le navi sul fiume. I rospi arruolano a forza marinai sbronzi intorno a Bloody Angle. Gli scamiciati hanno fatto i duri per un po', ma adesso sono ridotti a derubare gli ubriachi. Ciondolano dalle parti del vicolo assassini camuffati da cinesi. Maggie l'arpia tentò di aprire una specie di bettola, ma si beveva tutto, così fu buttata in mezzo alla strada. Bellissimo. Adesso s'attacca a quello che rimedia. Poi ci sono i brutti ceffi, vengono da un buco sperduto della madrepatria, parlano una lingua tutta loro, nessuno li capisce. Gli piace fare a botte con gli sbirri, e le nottambule del vicolo stracivendoli si prostituiscono e strozzano i clienti. Fanno così schifo che solo i brutti ceffi parlano con loro. Ma tanto quelli... Questo è un brano tratto dalle Gangs di New York, il film di Martin Scorsese, tratto da un famosissimo romanzo, che racconta proprio la genealogia e come nascono i gruppi delinquenziali più importanti, mafia compresa, nella città di New York, dalle varie etnie di migranti. È un po', diciamo, il fenomeno a cui stiamo osservando adesso, seguendo il filo della narrazione di alcuni filoni di cronaca, ma che abbiamo messo in contaminazione quelli che sono i racconti, le testimonianze. Tante persone ci hanno chiamato e ci hanno detto in sintesi: ma anche noi in Italia siamo sempre menati, vuoi con le catene, vuoi con le mazze, vuoi per la politica, vuoi per lo sport, vuoi semplicemente per il controllo di alcuni territori. Però l'escalation, la diversità, la differenza nasce proprio in quello che ci sta raccontando Aurelio Spaziani, che ha scritto il libro appunto Il fenomeno delle bande giovanili, il profilo criminale del branco, edizione Mondo Studio. Aurelio Spaziani, ci siamo interrotti proprio su quello che è il punto cruciale. Queste nuove baby gang etniche, chiamiamole così, si differenziano da quello che noi già conosciamo. Primo, perché hanno la necessità del mantenimento di un costo rituale, di un costo liturgico che prevede, secondo me, sedi, abbigliamento, luoghi in cui si possa mangiare e consumare le ritualità, e poi penso anche oggetti di status, automobili, motociclette, vestiti, cose che segnino e determinano l'appartenenza a una banda. Ho detto qualcosa di inesatto? No. Ha detto tutte quante cose assolutamente esatte. Infatti è molto importante avere in comune i vestiti, avere in comune dei tatuaggi, avere in comune degli oggetti anche che spiccano immediatamente agli occhi degli appartenenti ad altre bande giovanili, per contraddistinguersi e quindi anche contrapporsi anche a livello, diciamo, violento, con scontri veri e propri. Le risulta che siano armati in genere, mediamente? Ma di solito sono armati con armi da taglio, quindi... Che sono armi a tutti gli effetti. Sì, però nelle ritualità, soprattutto bande giovanili sudamericane, le cosiddette bandias o moras, nel rituale per il neofita è richiesta anche la costruzione di un'arma da fuoco abbastanza artigianale, è semplice. Te ne costruisci una pistola monocolpo? Con la una pistola monocolpo, un fucile monocolpo, solitamente un fucile monocolpo utilizzabile con munizionamento da caccia, perché è molto più semplice la realizzazione. Sì, quanto però sufficiente però a devastare la faccia di una persona? Assolutamente sì, no, ma anche ad uccidere una persona, assolutamente sì. E quindi ci troviamo in presenza di organizzazioni vere e proprie, anche se dobbiamo dire che, dato che la contrapposizione nel momento in cui è un'organizzazione che si impone delle regole, è quello di contrapporsi a quelle che sono le regole dello stato sociale in cui è inserita questa organizzazione, dobbiamo dire che sia a Genova che a Milano il fatto che molti appartenenti alle bande giovanili di sudamericani abbiano collaborato con la Polizia di Stato raccontando tutte queste cose, quindi le organizzazioni, la ritualità, la presenza dei vari compiti all'interno del gruppo, è comunque un risultato positivo, perché è praticamente la risposta pratica del fatto che vengono accettate le regole dello Stato e abbandonate le regole del gruppo devianti. Quindi diciamo è ottimistica la sua lettura, non ci sarà il rischio di nuove mafie, nuove camorre, nuove 'ndranghete che vengono da fuori e si costituiscono sui medesimi luoghi su cui si sono costituite le grandi organizzazioni nemiche dello Stato? Hanno una ritualità, hanno un forte senso dell'appartenenza, hanno dei riti anche che legano in maniera viscerale le persone, e chi tradisce la società organizzata su riti che prevedono lo scambio di sangue, prevedono l'atto violento e cruento condiviso, naturalmente viene punito in maniera molto feroce. Da lì nascono poi tutta la serie delle faide, delle contrapposizioni. Quindi lei escluderebbe il rischio che queste cose possano poi radicalizzarsi una volta cresciute, diventare delle vere e proprie organizzazioni? Poter escludere una cosa del genere è quasi impossibile, però una forma di controllo c'è. Io ho comunque una visione positiva del fenomeno, perché comunque è un fenomeno che è stato studiato, affrontato, viene monitorato costantemente, questo glielo assicuro, perché vi è comunque attenzionato anche dai nostri servizi centrali, e quindi comunque è un fenomeno che viene controllato. L'importante è che, secondo me, che questa è la mia opinione, ma penso che sia un po' l'opinione comune, che questi ragazzi sentano il più possibile che questa è la loro terra, che malgrado loro abbiano una cultura, delle tradizioni differenti, però possono acquisire nella loro cultura, nelle loro tradizioni, quelle che sono la cultura e le tradizioni italiane. Se uno può coltivare tutte le tradizioni, anche aggregative, che vuole, l'importante è che non vada in giro a far rapina da coltellate. Certo, sentiamo certo. Ivan, buongiorno. Buongiorno. Cosa deve dire? Sì, guarda, io sono un immigrante anche, spagnolo, a Trieste. Da dove viene lei? Sono da Madrid. Ah, da Madrid, proprio spagnolo, sì. Eppure a Madrid 5 anni fa ha iniziato questo fenomeno, diciamo, perché là l'immigrazione sudamericana è alta forte, perché condividiamo la lingua, no? Chiaro. E allora questi fenomeni si sono sviluppati fortemente, soprattutto da parte dei figli degli immigrati di prima generazione. Voglio dire, gli immigrati di prima generazione vengono qua a lavorare, hanno chiara la sua identità, sono immigrati, hanno problemi di adattazione, ma i figli trovano questi problemi di identità, no? Non sono neanche italiani e neanche proprio del paese d'origine. Ecco, come le risulta che in realtà questo fenomeno che ci precede nell'esperienza si sia evoluto nel suo paese? Questo che volevo dire, cioè, ci sono stati problemi, non tanto che si siano fatte organizzazioni fortemente stabilite, però sì che ci sono state guerre pure stradali, urbane, fra spagnoli e pure sudamericani, no? Che diciamo c'è queste guerre si sono aggiunto ci sono anche antichissimi e secolari motivi ci sono secolari motivi di contrapposizione. Io immagino che il sudamericano che va in Spagna ritrovi improvvisamente tutto il senso di ciò che per secoli probabilmente ha sentito come usurpato del suo. Comunque la sigla mi dice che questo interessante discorso è stato concluso, ci ritorneremo senz'altro. Ringrazio Aurelio Spaziani, ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno dato un loro importante contributo. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog.